parleremo del popolo Sahrawi, ne abbiamo già parlato, quindi credo che non solo perché ne abbiamo parlato noi, ma perché credo che sia un po' nella memoria storica delle compagne e i compagni del movimento romano e non solo romano, la storia, la lotta, la storia e la lotta del popolo Sahrawi. Due parole proprio per rinfrescare la memoria, ma credo che lo sappiate bene: il popolo Sahrawi, un popolo che abitava la zona dell'ex Sahara occidentale spagnolo, una colonizzazione spagnola vecchia di qualche secolo, che poi, grazie ai movimenti che negli anni 60 e 70 hanno liberato tutte le popolazioni africane, anche quel territorio è stato liberato dalla dominazione spagnola. Solo che nel momento di andar via la Spagna, i suoi buoni, la comunità internazionale, intendo per comunità internazionale le potenze imperialiste, quindi la Francia, ma anche gli Stati Uniti e così via, hanno cercato non di lasciare questo territorio, tra l'altro pieno di materie prime interessanti come i fosfati ed altro, di lasciarlo al popolo Sahrawi, alla loro determinazione, ma hanno cercato di metterci sopra lo zampino per interposta persona di Re Hassan del Marocco, che ha occupato tutto l'ex Sahara spagnolo, quindi tutto il Sahrawi, la regione del Sahrawi, costringendo la gran parte della popolazione a andare via, espellendo la gran parte della popolazione, occupandola proprio con dei coloni marocchini. La gente del Sahrawi ha continuato a lottare nel fronte Polisario, e però fisicamente si è dovuta spostare in territorio algerino. L'Algeria è stata l'unico paese, a differenza degli altri, che ha offerto ospitalità, e ci sono ai confini del Sahrawi con l'Algeria, quindi in territorio algerino, nella zona di Tindouf, dei grossi, enormi campi profughi, tendopoli, che ormai stanno lì da decenni, in cui la popolazione Sahrawi si è organizzata, continua a lottare, ma anche a produrre una propria vita in condizioni difficilissime, però con relazioni sociali e istituzioni molto interessanti. Abbiamo parlato l'altra volta della scuola, di come funziona la scuola, delle relazioni economiche tra di loro, di una certa produzione che producono, insomma, situazioni interessanti. Questa realtà del popolo Sahrawi in lotta è stata intercettata da alcuni compagni di Roma. Molti compagni e compagne di Roma hanno avuto sempre un rapporto di solidarietà con queste popolazioni, con questa popolazione in lotta. E alcuni compagni che si occupano in particolare di musica hanno intercettato quella parte del popolo Sahrawi che produce musica, appunto, ha un suo linguaggio, ha una sua cultura musicale molto interessante, il popolo Sahrawi, che rischia di essere sterminata insieme alla popolazione dall'occupazione marocchina. E sappiamo che le galere, l'abbiamo detto, marocchine sono piene di combattenti o comunque anche oppositori Sahrawi, eccetera eccetera. Ora, per fare in modo che non scompaia la cultura musicale del popolo Sahrawi, alcuni compagni e compagne appunto di italiani hanno contattato dei suonatori e delle compagne e compagni suonatori dei Sahrawi e hanno messo insieme un qualcosa per produrre musica Sahrawi, appunto. E di fatti, questo, da qui parte la nostra storia. E oggi si è arrivata a una prima tappa, no, di questo percorso, che è stata la produzione di un disco. La cui vendita, più che altro sottoscrizione, dovrebbe servire a produrre nei campi profughi, appunto, della zona di Tindouf, una sala di incisione, in modo che i musicisti Sahrawi possano, pure in quelle condizioni di rifugiati, di espulsi dal proprio territorio, produrre la propria musica, perché la musica sappiamo che è parte fondamentale della cultura di un popolo e quindi non deve essere assolutamente abbandonata né estinta. Bene, abbiamo qui Claudio con noi, che salutiamo. Ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. È già venuto qui in radio, appunto, insieme a musicisti Sahrawi. Oggi è solo per il semplice motivo banale ed economico che non avevano i soldi per pagare il biglietto dell'aereo a questi ragazzi Sahrawi che hanno suonato e che hanno prodotto insieme a loro questo disco. Lui è dei fondatori della ONLUS, dell'associazione ONLUS, Radici Solidali ONLUS, Popoli in Crescita, che si occupa proprio di questo progetto. Il progetto preciso, appunto, oggi ha prodotto questo disco, che tra poi faremo sentire alcune tracce, e che mira appunto a costruire questa sala di incisione nei campi profughi. Allora, ad aprile, sì. Raccontaci un po'. Buongiorno, innanzitutto grazie ancora per ospitarci nuovamente qui a Radio Onda Rossa, e volevo partire spiegando innanzitutto perché abbiamo scelto proprio la musica come strumento di lotta pacifica per il popolo Sahrawi. Questo perché ormai sono diversi anni che sia io che altri soci dell'associazione scendono nei campi e in questi anni abbiamo avuto la possibilità di vedere con i nostri occhi la difficoltà che tutti i musicisti sahrawi hanno nel realizzare la loro musica anche nei territori e anche nei campi profughi. Vi dico anche perché ovviamente la maggior parte dei musicisti sahrawi sono fuggiti dai territori occupati proprio perché perseguitati dalla polizia marocchina. Perché perseguitati? Perché gli era stato imposto di non poter produrre musica sahrawi. Questo significa fare musica con il dialetto marocchino e non con il dialetto sahrawi, che è l'assanie, che è completamente differente dal marocchino. Certo. Ma in più i marocchini pretendono che i musicisti sahrawi compongano le melodie e la musica nello stile marocchino, uno stile che appunto ai sahrawi non può appartenergli, in quanto sono etnicamente e culturalmente differenti. Allora, che cosa è accaduto? Che noi ci siamo resi conto che questi musicisti, fuggendo dai territori occupati, non avevano la possibilità di produrre musica nei campi profughi. Quindi si ritrovavano da punta da capo: da una parte non potevano farla a causa del governo marocchino e da un'altra parte non la potevano realizzare a causa della mancanza di strumentazioni e di sale musicali decenti, diciamo. Così abbiamo deciso di realizzare questo progetto. Il progetto si è intitolato Musica per il Popolo Sahrawi ed è partito un anno e mezzo fa, forse un pochino meno, è partito a febbraio del 2010. E si è diviso in tre fasi. La prima è stata quella di portare giù degli strumenti musicali, quindi chitarre elettriche, bassi elettrici, amplificatori, impianti voci, mixer, microfoni, aste e via dicendo. La seconda è stata quella che appunto di cui stavamo parlando prima, cioè la realizzazione di una tournée italiana del gruppo Estrella Seghet Lamra, che è avvenuta appunto a novembre 2010, e la realizzazione appunto di questo disco. Il disco, vi ricordo che si intitola Libertà di Paz ed ha una doppia valenza. Una è per omaggiare l'associazione Sahrawi con cui noi stiamo collaborando ora nei campi profughi, che appunto si chiama Libertà di Paz, ma anche per ponere, diciamo, sul disco due parole che oggi purtroppo il popolo Sahrawi non può vivere, cioè la libertà e la pace. Allora, io direi che facciamo sentire questa traccia che poi ci racconti, oppure se ce la vuoi illustrare prima. La traccia si intitola, dice delle cose particolari, molto interessante, sì, perché si intitola Selemin e il ritornello che ora ascolterete è Yelemin Selemin Yedemin Shishain, che, diciamo, parafrasando, perché ovviamente è difficile tradurre l'arabo in questo modo, significa a tutti gli uomini di fede, a tutte le persone che credono, quindi non è rivolto solamente al mondo musulmano, ma è rivolto a tutti noi che crediamo, venite e guardate come vivono oggi i Sahrawi e quello che sono costretti a subire giorno dopo giorno. E allora ci sentiamo la traccia. And Riprendiamo con Claudio. Intanto una descrizione anche degli strumenti usati e del loro uso, diciamo. In certo. Diciamo che è molto particolare questo come descrizione, perché il gruppo Estrella Saget Lambra ha avuto come interesse primario quello di creare una musica che continuasse a mantenere la tradizionalità sahrawi, la cultura sahrawi, ma in un modo, diciamo, più moderno. Questo perché? Perché per loro la musica è diventato uno strumento di diffusione della causa sahrawi, quindi per loro è diventato più importante fare una musica che sia più vicino alle orecchie occidentali, diciamo, in modo tale da, insomma, creare una diffusione sempre maggiore attraverso la musica in questo caso. Ma ovviamente io credo che i sahrawi vogliano sia difendere la loro tradizione, ma vogliano anche, diciamo, modernizzarsi, proprio perché vogliono far conoscere la loro situazione e la loro causa, ecco. E i loro strumenti che vengono utilizzati in questo disco sono tastiera con tutti i relativi effetti, chitarra elettrica, chitarra acustica, basso, e ogni canzone è fatta a 3 o 4 voci. Questo perché prima dell'invasione spagnola, quindi parliamo proprio di tempi molto indietro, la musica sahrawi era costruita prevalentemente intorno alla voce. come molte musiche di quell'area. Ecco, veniamo adesso, facciamo questa sorta di come dire, va e vieni tra la, diciamo, la struttura musicale di questo lavoro e anche l'aspetto politico della lotta del popolo sarawi. Allora, dicevamo l'altra volta, quando però ci siamo visti la prima volta, ancora non erano esplose in maniera così dirompente le rivolte nei paesi limitrofi, no? Un po' anche l'Algeria e il Marocco, però in maniera contenuta, però soprattutto Tunisia, Egitto, Libia, e vediamo. E allora, ecco, qual è la situazione, qual è il rapporto tra situazioni che vivono i popoli sarawi, loro aspettative, loro prospettive, c'è questo famoso referendum che viene rinviato ormai da 20 anni, da 30 anni, e rispetto a queste rivolte? Sì, praticamente iniziamo dicendo che le rivolte sahrawi sono partite ben prima di quello che poi è accaduto in Egitto, in Libia e in Tunisia. Infatti, già l'8 novembre del 2010 ci fu una grandissima repressione proprio alle porte di Laayoune, che è la capitale del Sahara occupato, da parte dei militari marocchini, proprio perché si era creato un campo di protesta che inizialmente contava una decina, 20 famiglie, ma che in breve tempo si era allargato a dismisura, creando appunto proprio un campo di protesta, ma molto molto ampio, con centinaia se non migliaia di persone che protestavano, ricordo, in modo pacifico. Vi ricordo che i sahrawi sono una popolazione pacifica e perseguono una lotta pacifica per realizzare la loro indipendenza. Che cosa è accaduto l'8 novembre? Che l'esercito marocchino ha circondato questo campo di protesta e ha bruciato letteralmente il campo, non soltanto il campo. Dopo aver bruciato il campo, sono ritornati nella città occupata di Laayoune e hanno incominciato a bruciare macchine e case delle famiglie sahrawi. Ovviamente non ci sono stati solo danni materiali, ci sono ancora oggi desaparecidos, persone che dall'8, 9, 10 novembre sono nelle prigioni nigre, le chiamano, le prigioni segrete del governo marocchino, mentre si conta che più di 20 persone siano state uccise in questo smantellamento del campo. Da lì possiamo dire che è stata, come dire, la miccia che ha creato poi tutto il disordine che c'è oggi nel Nord Africa, ecco. L'unica cosa che volevo precisare è che mentre in Egitto, in Libia, in Tunisia c'era un presidente o un capo supremo, diciamo, del governo, per quanto riguarda il Marocco la situazione è più intricata, in quanto appunto sappiamo che oggi il re marocchino Mohammed VI si definisce discendente di Maometto. Quindi ovviamente per il popolo marocchino protestare nei confronti di un discendente di Maometto diventa molto più difficile, se non quasi impossibile, ecco, diciamo. Ovviamente se nel Marocco si scatenassero le manifestazioni come si sono scatenate in Egitto, in Libia e ora in Tunisia, ovviamente sia il Polisario ma anche la RASD, insomma, potrebbero pensare comunque di trovare una soluzione in un momento così instabile. Questo però ovviamente sono solamente supposizioni. Certo. Comunque loro quindi guardano di buon occhio queste rivolte, perché in qualche modo danno anche al loro agio di poter esprimere i propri obiettivi. Certo, certo. Ovviamente vedere che altre popolazioni cercano di cambiare la situazione può far solamente piacere al popolo sahrawi, in quanto è vissuta, diciamo, per 30 anni ormai, vive in una situazione di stallo, e vedere tutto questo movimento nel Nord Africa può creare dei presupposti per un cambiamento. Certo. Allora, tornando alla vostra specifica attività, che non è slegata, apposta parliamo dell'uno e dell'altro, la vostra attività specificamente musicale, che però è all'interno della lotta di solidarietà, di liberazione del popolo sahrawi. E allora, adesso siamo arrivati avete fatto il disco e adesso appunto verrà messo in distribuzione per poter ottenere per poter costruire con i proventi di questo disco quella sala di registrazione. Questa è la prima tappa di questa vostra. Successivamente cosa pensate di fare? Radici Solidali, innanzitutto volevo specificare che si rivolge prevalentemente a tutti i popoli e le società emarginate. Questo significa che noi in questo momento stiamo operando a favore del popolo Sahrawi, ma successivamente tenteremo di operare anche in altre situazioni, come potrebbe essere il Kurdistan, la Palestina stessa o anche il Tibet. Lo scopo prevalente dell'associazione è quello di essere un ponte dove appunto queste società e questi popoli emarginati e gettati proprio nel dimenticatoio possano incontrarsi. Vi faccio un esempio molto veloce. Ieri ho avuto il piacere di essere in compagnia di un ragazzo Sahrawi salito dai campi, e diciamo che gli ho fatto da cicerone su Roma per vedere il Colosseo e via dicendo, e casualmente ha incontrato una manifestazione a favore del Kurdistan. E da quel momento lui ha cominciato a chiedermi: ma chi sono, chi non sono? Perché giustamente attraverso la disinformazione i Sahrawi possono conoscere i palestinesi, in quanto a livello mediatico ormai sono globalmente conosciuti, ecco. Però quando andiamo a parlare per esempio del Kurdistan o di popolazioni anche del Sud America, noi potremmo anche operare a favore degli indiani d'America addirittura. Loro non sanno, il mio amico Sahrawi ieri non sapeva che cosa è accaduto ai curdi, dove sta il Kurdistan. Quindi diciamo che vogliamo tentare di creare un dialogo tra queste popolazioni in modo che si possano conoscere e creare magari un percorso di pace e di resistenza pacifica che possa portare appunto un cambiamento e un miglioramento da una parte e dall'altra. Senti, ci vogliamo sentire un'altra traccia, consigliaci quale. Sahara Meninsa, la 4. È perfetto. Una canzone italo-sahrawi, uh-huh, registrata qui in Italia poco prima che partissero i ragazzi. È stata scritta in una settimana proprio perché i ragazzi avevano il piacere di realizzare una canzone sia in assanie e sia in italiano. Ok, la mandiamo, ce l'ascoltiamo. Thank you. venduto e poi buttato via. La vita al di là di un muro, bandiere alzate sulle strade di Laiuto. Questa canzone, da come mi hai detto prima, parla, lo dici anche perché c'è la voce tua in questa, in italiano dice di questo muro che taglia in due il corpo. Sì, praticamente il muro è il muro marocchino, un muro che vi ricordo che è lungo circa 2400 chilometri, che taglia in due letteralmente il Sahara occidentale oggi. Una parte è liberata dal popolo Sahrawi, che è la parte dell'entroterra, e la parte invece sulla costa è ancora oggi sotto occupazione marocchina. Vi invito tutti quanti ad andare a vedere questo muro, perché è possibile vederlo anche attraverso il satellite. E vi renderete conto che è un muro di sabbia lunghissimo che taglia e chiude il Sahara occidentale. Ecco, sì, lo si può vedere anche appunto attraverso oggi Google Map, perché sì, dal satellite prima lo oscurava il regime marocchino, adesso non può più e quindi si può vedere, vi rendete conto. È uno dei più lunghi muri esistenti sulla terra. E non solo, è uno dei muri dove ci sono il maggior numero di mine anti-uomo e mine anticarro. Mm-hmm, certo. Ancora oggi non ci sono stati dei progetti di bonifica. Infatti. È minata la zona intorno, gran parte di quelle mine, sappiamo, l'abbiamo denunciato spesso, sono di produzione anche italiana, che ha un buon rapporto purtroppo di forniture militari con il Marocco, l'Italia, le ditte italiane di produzione di queste mine. E raccontaci un po' brevemente la storia di questo muro, come è iniziata, come si è realizzata e gli scontri che avvengono a ridosso di quel muro. Il muro è stato il primo muro, vi ricordo che sono stati costruiti 7 muri nel totale. Il primo muro è stato costruito nel 1980 e tutti i 7 muri sono stati realizzati tra il 1980 e il 1991, anno in cui appunto le Nazioni Unite attraverso la missione MINURSO decretarono non la pace nel territorio ma semplicemente il cessate il fuoco. Ok, e quanti anni c'è voluto per produrre questo muro? Allora, il primo muro che è stato realizzato fu realizzato intorno al sito di Bukhra. Bukhra è una città sahrawi che si trova proprio a ridosso dei più grandi giacimenti di fosfato che si trovano nel nord Africa. Dopodiché I marocchini possiamo dire che sono stati costretti a costruire questo muro, in quanto ovviamente le azioni di guerriglia sahrawi nel territorio sahrawi erano molto ma molto molto efficaci rispetto alle azioni di guerra dei militari marocchini, in quanto i militari marocchini non conoscevano il territorio, quindi si sono trovati costretti a realizzare questo muro e a disseminarlo di mine antiuomo e anticarro. Vi ricordo che fino al 1998 il Sahara occidentale era tra i 10 paesi al mondo con il maggior numero di mine sul territorio. E senti, allora, dacci intanto, per terminare, poi faremo sentire anche un'altra canzone, diciamo, dove presenterete questo disco. Ovviamente sarà anche qui in radio, se lo volete, coloro che vogliono contribuire appunto a questa iniziativa a favore, a fianco del popolo sahrawi, possono venire a prendere la radio, e poi sarà presente alcune copie di questi dischi nei banchetti della radio che faremo prossimamente. E allora, intanto dici dove verrà presentato, quali sì. iniziative intendete fare intorno. Vi ricordo ovviamente che questo è un progetto di autofinanziamento, quindi tutto ciò che noi riusciremo a prendere attraverso la vendita del CD verrà destinato per la realizzazione di questa sala incisione. La sala incisione verrà realizzata nel mese di maggio di quest'anno, quindi siamo proprio alle porte. E potete trovare il disco per comprarlo online sul sito di Radici Solidali, www.radicisolidali.it. Lo potete trovare qui a Radio Onda Rossa, oppure potete venirlo a prendere in ogni iniziativa che noi stiamo svolgendo, appunto, non solo a Roma ma su tutto il territorio italiano. Per esempio, questa sera ci troveremo a Perugia, mentre su Roma vi invito a tutti voi il 16 a Via della Magliana, al locale che si chiama In Senso Inverso, per una serata a sostegno non solo della musica sahrawi ma a sostegno proprio di tutto il popolo sahrawi. Infatti non verrà distribuito solamente il CD, ma verranno anche proiettate dei documentari, verranno proiettati dei documentari sulla realtà sahrawi dei campi e dei territori occupati, e ci saranno delle mostre fotografiche e un'area dibattito dove si potrà parlare e domandare se c'è qualche domanda da chiedere, insomma. Bene, allora, per ora possiamo concluderla qui la trasmissione, e facciamo sentire un altro pezzo, l'ultimo, il numero 5, la traccia numero 5, Sahel, sì. Che è l'area, è loro. Questa è una... Sì, una canzone molto bella che io definisco reggeggiante addirittura, ed è proprio questa la bellezza della musica sahrawi, il fatto di essere riuscita a mischiare le influenze che si sono venute a trovare in quel territorio nel Sahara occidentale. Infatti io lo definisco oggi un afro-reg arabeggiante. Questo significa che la musica africana comunque è venuta, diciamo, dall'Africa subsahariana. La musica arabeggiante è venuta dall'Arabia Saudita, infatti cantano in arabo, e reggeggiante la definisco così in quanto molti tempi sono il levare. Ok, bene, con questo pezzo ci salutiamo, ci vediamo allora alle iniziative della radio, dove potrete diciamo presentare e diffondere questo disco. Noi ti ringraziamo, o qualunque altra cosa, iniziative che fate, potete venire qui in radio a presentarle. Manderemo spesso anche da questi microfoni questa musica. Ti ringraziamo, Claudio, buon lavoro e buona solidarietà al popolo sahrawi. Sahara Libre. Ciao. ساقية بالذات مرتع زين وينزال كل نهار خيامة منين تعود فوات ساقية بالذات مرتع زين وينزال كل نهار خيامة أهلا رصي لو تاب رحمة مولانا جاب أهلا رصي لو تاب رحمة مولانا صح البيت مال والقبلة طوب شرق بيت نار وتلات شوب.